Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis-Jean Bobin. E ringraziando Dino Zandegu, che ha fatto un attimo confusione tra le salite di questo tour e ha citato l'Aubisque, che non mi risulta essere in programma, credo non risulti neanche a voi. Lo ringraziamo ugualmente, il suo contributo è stato fondamentale per questa trasmissione, e anzi Dino Zandegu purtroppo non è qui con noi quest'oggi, ma il nostro invito vale per qualsiasi altra volta. Dino, questa casa aspetta te. Accaldatissimi. Nonostante l'assenza di Dino Zandegu, diamo il benvenuto a tutti quanti per l'appuntamento numero 0 di Radio Bidon, un esperimento radiofonico che nasce in occasione del Tour 2016, nasce in maniera inaspettata e in maniera unica, perché per una volta ci troviamo in quattro intorno a un tavolo, intorno a un registratore a parlare. Mi hanno fatto venire dalla Puglia apposta. Ha lasciato il mare per venire nel caldo di Milano, vabbè. Siamo stati aiutati in maniera decisiva dalla nazionale di calcio islandese, ma questo è un discorso che approfondiremo al termine del campionato europeo. Per il momento iniziamo a parlare del Tour de France 2016, come ne parlerà Bidon in una serie di appuntamenti che poi vi illustreremo. Ne parliamo in quattro con me, io sono Kautz, di fianco a me c'è Leonardo Piccione. Ciao. Francesco Bozzi. Ciao ciao. E Riccardo Spinelli di fronte a me. Ciao. Fatte le presentazioni di rito, iniziamo a parlare di quello che ci aspetta da qui alle prossime tre settimane. Ci aspettano sicuramente una quantità di birre spropositata, anche perché se la temperatura resta questa saranno abbastanza fondamentali. Ci aspetta soprattutto un esercizio di dispersione del tempo sul divano, in cui passeremo le nostre giornate tra divano e computer ad analizzare per filo e per segno il Tour 2016. Beh, più o meno. A modo nostro. Tanti non le prenderanno come delle analisi troppo tecniche, ma per quanto ci riguarda e per quanto mi riguarda, il tour è un momento assolutamente poetico e irrinunciabile dell'estate, per cui è necessario perdere le proprie giornate, il proprio mese di luglio è necessario perderlo davanti al tour. Ci provano a scipparcelo con iniziative discutibili come tipo gli europei di calcio, esatto. Ci proveranno con le Olimpiadi, arrivano dopo. Ci provano in tanti modi, la Brexit, non lo so, stanno provando a mettere mille temi sul tavolo per distrarre il popolo dal Tour de France. In realtà noi siamo qui a rappresentare la gente e siamo qui a viverci questo Tour de France, perché il Tour de France è il mese di luglio, il Tour de France è l'estate e soprattutto il Tour de France è il ciclismo. Sì, il Tour de France è l'estate, ma resta sostanzialmente un evento imperdibile, in quanto è qualcosa di tremendamente tragico e crudele. Questi tempi, trovare qualcosa di tragico e così crudele è difficile. Ciò nonostante, resta, nonostante la sua tragicità, qualcosa di che porta a una festa sconsiderata. La Francia nel mese di luglio è un altro paese rispetto agli altri mesi dell'anno, e per questo, per vedere questa tragedia festosa, guardiamo il Tour de France. È una tragedia festosa anche a livello personale, visto che di fatto è una rinuncia quando vedi i tuoi amici avviarsi verso le spiagge in vacanza. Se te decidi di stare solo, senza ventilatore, senza condizionatore, davanti a un computer o a una televisione per 3 ore, e gli devi spiegare perché stai solo davanti a quel computer, nessuno lo capirà mai, quindi sì, è una rinuncia. A me, a parte le cronache gialle di Alessandro e Stefano, altri motivi particolari non me ne vengono in mente, però ci penso e entro la fine della puntata ve lo dico, promesso. Probabilmente Radio Bidon e tutto quello che farà Bidon durante il Tour de France che sta per iniziare sarà un buon motivo, siamo sicuri che lo diventerà. C'è poi un altro motivo molto più futile per seguire il Tour de France, ovvero vedere chi lo vince, che è una cosa che a molti di noi appassiona molto interessa. Poco. C'è ancora qualcuno a cui interessa, per cui facciamo anche un servizio sociale, andiamo incontro a chi trova ancora interesse nella classifica finale, soprattutto letta dal giallo verso il rosso, ovvero dalla maglia gialla verso la lanterna rossa, e non al contrario come piace spesso leggerla noi. Per cui ci siamo trovati quest'oggi, visto che siamo in quattro, è stato naturale scegliere quattro nomi da cui partire. Sono un po' i nomi a cui tutti stanno pensando, sono, diciamoli subito tutti, sono Froome, Quintana, Contador e Fabio Aru, e a ciascuno di questi abbiamo voluto dare una valutazione da 1 a 5, le nostre fantomatiche borracce che già abbiamo usato, esatto, come metro di giudizio al Giro d'Italia, e direi che possiamo valutarla insieme a partire da quello che nel nostro totale ha preso meno di tutti. Che è Contador a cui Filippo ha dato 1, cioè il minimo. Io vorrei capire perché gli ha dato soltanto soltanto una borraccia. Per stima, perché qui si dice chi vincerà questo Tour de France, io con tutto l'amore verso un corridore come Alberto Contador non riesco a vedermelo in maglia gialla in nessun modo. Vedo davanti a lui anche altri corridori che non sono questi quattro. Contador ha fatto una carriera strepitosa, non c'è nulla da dire. Non stiamo a dilungarci di certo qui sulla carriera di Alberto Contador. Mi sembra che da quanto si è visto in questa stagione sin qui, sicuramente venderà cara la pelle più di ogni altro, ma poi quella pelle... Ha vinto la cronoscalata del Delfinato, la prima tappa. Ha vinto la prima tappa del Delfinato, la cronoscalata, poi nelle altre tappe ha iniziato a perdere colpi. È anche vero che io non mi fido mai del Delfinato, per cui... Io per d'ufficio devo difendere Contador, devo difenderlo per due motivi innanzitutto. Il primo è che se prendiamo gli ultimi Tour de France, allora lui nel 2011 e 2015 aveva corso il Giro d'Italia, nel 2012 era squalificato, 13 tornava dalla squalifica, 14 è caduto. Questo è il primo anno dove realmente lui si è preparato soltanto per il Tour, a parte il 2014 quando poi ho detto prima era caduto. E c'è un percorso soprattutto che si adatta perfettamente secondo me alle sue caratteristiche. È vario, è mosso, ci sono tappe in cui le imboscate sono possibili e Contador obiettivamente è uno dei pochi in gruppo che può pensare seriamente di seminare imboscate durante questo tipo di tappe. Quindi io qualche chance in più gliela do. C'è da dire che a non fidarsi del Delfinato si può anche cascare bene. Ad esempio c'è un corridore che su questo tour punta tantissimo e nei nostri pareri non sembra cogliere troppo consenso, ha fatto un Delfinato abbastanza deludente, ma stiamo a vedere cosa combinerà Fabio Aru a questo Tour de France. Per noi è il terzo candidato. Sì, ha fatto un delfinato deludente, nonostante abbia vinto la terza tappa con un'azione che non è nelle sue corde. Una grande tappa, sì, attaccando sull'ultima salita e poi continuando l'attacco in discesa, azione che non avevamo mai visto da Fabio Aru. E a Fabio Aru però avrà due problemi sostanzialmente. Il primo problema è che dovrà smetterla di dire sono contento di misurarmi con Contador, il mio idolo, il sogno di una vita, e poi farsi sempre... staccare, perché potrebbe farcela di fatto, l'ha già dimostrato. Contador continua a dire prima o poi mi staccherai, e forse sei più forte, buona, sei più forte di me di quando avevo la tua età, perché di fatto anche due anni fa, nonostante abbia fatto una corsa aggressiva al Giro d'Italia, comunque in certe tappe ha tentennato un po' e Contador ne ha approfittato. E Nibali, come la mettiamo tra Nibali e Aru? Il secondo problema di Fabio Aru è proprio Nibali. È un problema Nibali per Aru? Beh, diciamo che se con Contador c'è un rapporto di amore quasi sospetto, con Nibali questo amore non mi sembra che sia tutto rose e fiori. Io sono molto curioso di vedere cosa farà Nibali a questo Tour de France, perché arriva un po' a fari spenti, dice che si preparerà per le Olimpiadi di Rio e che è qui a fare il gregario, ma in realtà un corridore del palmarès e del talento di Nibali, quando ha davanti la possibilità di giocarsi una doppietta Giro Tour, le Olimpiadi se le dimentica. Ma ce l'ha questa possibilità secondo te? Secondo me ne dobbiamo riparlare una volta appunto che è finita quella manifestazione collaterale degli europei di calcio, ovvero arrivati ai Pirenei. Se Nibali arriva ai Pirenei, che è ancora in una buona posizione di classifica, io non credo che mollerà. Poi magari, per carità, non lo vincerà questo tour, sicuramente ci sono corridori che sono preparati molto meglio di lui, sono anche meno stanchi di lui, che è quello che ha corso più di tutti. Però davanti a questa prospettiva Nibali non è uno che tira indietro la gamba. Non si vogliono benissimo, almeno a quanto pare. Molti si chiedono cosa possa succedere nel pullman dell'Astana durante questo tour. E alcuni sottolineano anche il fatto che Martinelli è lo stesso direttore sportivo del famoso 2004 con Simoni e Cunego, e ci ricordiamo quello che è successo. Martinelli ha diviso in due l'Astana nel momento delle convocazioni. Ci sono tre gregari abituali di Nibali e tre gregari abituali di Aru. Il nono è un corridore kazako in rappresentanza del governo kazako. Probabilmente stai a vedere che anche questa volta è il governo kazako che sceglie le sorti della corsa. Sul secondo, la nostra graduatoria, diciamo che siamo stati un po' viziati nel giudizio da un parere esterno che abbiamo voluto consultare e che vi facciamo sentire immediatamente e poi lo commentiamo. Se è un po' più sveglio dell'anno scorso lo vince Quintana, che però con la storia di dire sempre magnana, il tour non è finito qui, e cazzo, infatti ha attaccato l'ultimo giorno sull'ultima salita, ha mandato in crisi nera Froome, che se non c'era Porta ha perso il tour, e forse Quintana avrà imparato qualcosa da questo. Ok, la voce l'avrete riconosciuta dalle pause, dalle sigarette che non si vedono ma si avvertono, chiaramente è la voce di Gianni Mura, che in quanto a esperienza sul Tour de France, se sommiamo tutti i nostri, ci dà ancora un certo distacco. Lui dà come favorito Quintana, ma mette in dubbio il fatto che abbia appreso meno la lezione dell'anno scorso. Tu, Francesco, cosa ne dici? Ma Quintana non so se abbia realmente appreso la lezione dell'anno scorso, però di sicuro sta bene, perché viene dalle vittorie alla Route du Sud, tra l'altro vinta grazie di fatto alla cronometro, quindi specialità non proprio di casa. Ha fatto dei numeri alla Route du Sud Quintana. Esattamente, e il Tour de Romandie, che comunque è una vittoria di prestigio. E poi lo vedo decisamente concentrato e solenne quasi, perché si sta mettendo nelle spalle proprio la responsabilità di rappresentare il proprio paese, di, ha detto più volte, di ripagare la fiducia della Colombia. Ha detto è necessario e logico che io vinca. Esattamente, è capibile, perché andando per esempio a Bogotà mi è capitato di vedere la Vuelta con protagonista Quintana e letteralmente telecronisti colombiani iniziano a urlare a 150 km dall'arrivo quando inizia la prima salita di giornate, e quindi è palpabile. Ma c'è gente in Colombia che gli fa toccare i figli per dire se tu lo tocchi diventerà, avrà successo nella vita, perché l'ha toccato Nairo Quintana. Quindi questa è la situazione. Corre con dei bambini, dei vecchi e dei telecronisti impazziti, quindi possiamo... Corre anche con un signore che si chiama Alejandro Valverde, che sta dichiarando in ogni intervista che lui è qui solo ed esclusivamente in appoggio a Nairo Quintana. Il rapporto è completamente diverso rispetto a quello che commentavamo su Nibali e Aru, e non c'è solo la fiducia alla Colombia, c'è la fiducia di uno squadrone come la Movistar, e io penso che avere uno che ti dà una mano come Valverde sia un lusso che nessun altro può permettersi nel ciclismo. La Movistar l'anno scorso ci ha lasciato un po' l'impressione che avesse corso per il secondo e il terzo posto, tranne poi provarci nell'ultima tappa. Vediamo se quest'anno saranno disposti a rinunciare a qualcosa per tentare finalmente di conquistare il tour con Nairo Quintana. Sì, forse il tour dell'anno scorso è stato... ne parleremo a fine tour. Se Quintana l'ha vinto, potremmo probabilmente dire che il tour dell'anno scorso è stato l'inizio della costruzione del tour di quest'anno. Ok, nel nostro conteggio c'è quindi un favorito principale. Per esclusione. Si sarà già capito, ma la differenza è veramente sottile. Qualcuno di noi forse non lo mette neanche per primo, però è evidente che noblesse oblige, il favorito di questo Tour de France è Chris Froome. Sì, distanza minima, mezza borraccetta secondo il nostro calcolo, e possiamo dire che Froome e Quintana sono i fantastici due di quest'anno. L'anno scorso forse erano quattro alla partenza, poi hanno dimostrato di essere veramente loro due i grandi favoriti. Froome di diritto è il vero l'uomo da battere di questo Tour. La sua capacità di migliorare dove sembrano ci siano dubbi è straordinaria. L'anno scorso pensavamo potesse soffrire nelle tappe col vento, nella tappa sul pavé, invece ha guadagnato sui suoi avversari in quelle tappe. Lui è uno che conosce i suoi limiti, sa dove sbaglia e migliora esattamente lì. E sta cambiando, continua a cambiare, ha detto di essere più tranquillo quest'anno. Non riesco a immaginare punti deboli al di là di una eventuale rivalità interna con Thomas, con Geraint Thomas. Oppure proprio questo rilassamento di cui lui stesso ha parlato, dovuto anche alla nascita del suo primogenito, Kellan, che gli ha portato via del tempo. Lui ha dichiarato: in inverno ho dedicato molto tempo a lui. Chissà che questo non abbia qualche conseguenza sulla terza settimana del tour, quello in cui probabilmente Quintana lo attaccherà. E forse una scarsa unità di intenti squadra? Non lo so, parte Thomas. La Sky fa paura, se leggiamo i nomi. Dubito che non abbiano programmato anche questa volta alla perfezione tutto. Staremo a vedere. La storia della Sky ci insegna che l'unico che ha minato l'unità di intenti nella sua storia è proprio Chris Froome, per cui... non credo che si possa porre questo dubbio. Fin qui abbiamo detto nomi a caso, in realtà il favorito è un altro e ce lo dice Kautz. Beh, il mio favorito indubbiamente si chiama Thibaut Pinot, si sa che è un corridore verso cui ho una certa fascinazione. Quest'anno arriva al Tour come non è mai arrivato come condizione di forma, è riuscito addirittura a vincere il campionato nazionale a cronometro, ha avuto dei progressi a cronometro che fanno paura. E quello che mi fa paura invece a me delle possibilità di vincere il Tour per Thibaut Pinot è proprio questo. Arriva un po' troppo forte, è un corridore che a livello di qualità e di talento è a livello massimo, è difficile trovarne altri superiori a lui. Di testa ha sempre mostrato la tenuta mentale, sì, di Pinot mi spaventa un sacco. Quelle giornate di debolezza. E è il solito discorso, il campione è quello che parte da vincitore designato e vince. Partire dalla seconda fila e fare bene è molto più facile. Tipo Pinot stavolta si trova a partire veramente dalla prima fila, non sarà come i primi quattro, ma è veramente lì a ridosso. Se rifacessimo il conto delle borraccette, inserissimo anche lui, secondo me potrebbe anche superare qualcuno. Andiamo a vedere quanto regge lui. E invece Van Garderen o gli uomini della BMC anche con Port, li consideriamo in qualche modo o no? Ma Van Garderen sicuramente sì, secondo me, anche perché l'anno scorso era aspettato per essere confermata la stagione precedente, ebbe problemi fisici, lo sappiamo tutti. E quindi tendenzialmente sì, anche perché ha una squadra costruita, se non interamente attorno a lui, quantomeno con un gregario capitano d'esperienza come Port. Il problema della BMC è che sono veramente simili Van Garderen e Port, sono due corridori forse che troppo reggono 10 giorni. Forse il tour durasse 10 giorni, avrebbero due grandissimi capitani. Vediamo sulla distanza chi dei due diventerà realmente capitano e se potrà uno dei due competere per il podio, quantomeno, perché i numeri ci sarebbero. Ma poi voi ve lo vedete Port che fa il gregario Van Garderen? No. Cioè, no. Questo faceva il gregario al migliore del mondo, se n'è andato e se ne va per fare il gregario a uno che... È proprio quello il problema. Ok, questi sono probabilmente i nostri favoriti. Il nostro rumore favorito invece del prossimo Tour de France dovrebbe essere questo. E poi ci saranno una serie di nomi a cui dedicheremo particolare attenzione, anche senza che siano uomini di classifica o uomini che vinceranno qualcosa. Uomini magari per cui stappare una birra. Secondo te, Leonardo, Io, il mio uomo è Eduardo Sepúlveda. L'anno scorso mi ha fatto emozionare un sacco quando fu squalificato perché era salito sulla miraglia della squadra avversaria della Jeux Desert. Dopo aver rotto la catena, salito sulla miraglia per recuperare la sua miraglia. E fu squalificato un attimo dopo. Però lui va forte in salita, almeno in Argentina dicono che vada molto forte, no? È bravo, l'anno scorso anche al Tour stava dimostrando di essere consistente. E per una top 10 o per qualche bella fuga nei tapponi alpini, io Sepúlveda me lo gioco. Una birra in fresco per lui la tengo. Io invece vado con Imanol Erviti, che ci ha fatto emozionare nelle gare di primavera. È arrivato nono alla Parigi-Roubaix e settimo al Giro delle Fiandre, il primo spagnolo a arrivare nei primi 10 nello stesso anno in queste due corse, e bisognerà vedere se Quintana lo lascia partire in qualche fuga. A noi piacerebbe tantissimo, e appunto se lo lascia, gli daranno carta bianca, vedremo, noi ci speriamo. E io invece andrei verso una scelta quasi spinta dalla curiosità toponomastica, cioè di capire essenzialmente come si pronuncia Luis Méntyes per prima cosa, e di vedere soprattutto come lo pronunceranno i telecronisti, da Magrini a Martinello o allo stesso Cassani. Detto ciò, è perché sostanzialmente Méntyes è stato il pomo della discordia, croce delizia alla Vuelta di Spagna dell'anno scorso, quando firmò a sorpresa per la Lampre, e perché è un ottimo prospetto e ha già chiuso tra i primi 10 in un grande giro, quindi perché no al Tour, una follia. No? Vedo che vi ostinate a sostenere che al Tour de France debbano essere protagonisti degli stranieri, che non siano i francesi. Una cosa che non riesco a comprendere. Io tornerei su dei bei dazi doganali e partirei quindi dai corridori francesi. Ce n'è un'infinità, li conosciamo tutti tanto. Io voglio vedere quest'anno dove arriva Warren Barguil, perché è il grande Barguil. Sì, è uno che ha avuto una stagione bella complicata, soprattutto con l'incidente drammatico, sì, che ha coinvolto la squadra. E la squadra ha cambiato maglia, corrono in bianco questo Tour de France. Barguil è un giovane, il bianco è il corridore dei giovani. Warren Barguil sarà l'uomo sorpresa di questo Tour de France. È maglia bianca del Tour, secondo te, no? Non dovremmo verificare se Quintana è ancora, potrebbe essere, credo, capace, no, che no, sia, credo, ancora che in non classifica sia più. E sempre nella Giant c'è anche lui coinvolto nello stesso incidente, Degenkolb. che sarà probabilmente l'avversario principale di Peter Sagan per la maglia verde. Qualcuno può togliere la maglia verde a Sagan, secondo voi? Se arrivano i grandi velocisti negli Champs-Élysées, ma la vedo molto dura visto il tracciato. Quindi sì, forse Degenkolb, Massimo Kristoff, non lo so. Credo che le scommesse siano chiuse sulla maglia verde. Ormai c'è la tatuata, quindi la quinta consecutiva sarebbe. Dovrebbe perderla lui, ma penso può che solo perderla lui. Mi sembra che oltretutto Sagan, che fino a qualche mese fa, a un anno fa, era uno che era bravissimo anche a perdere, ultimamente si sta un po' troppo specializzando nel vincere. Magari la maglia verde è la cosa che perde quest'anno. Poi sui grandi velocisti non saprei, perché vediamo il fatto che la notizia dell'ultima settimana della non partecipazione di Buanni dopo un numero dei suoi in una notte in albergo ha tolto un cliente scomodo dalle volate, e vediamo sui grandi velocisti se ci sarà qualcuno che saprà affermarsi davvero. Le volate in pianura le vince tutte Kittel, o no? Io non riesco a immaginare qualcuno, sì. Greipel forse, che possa battere. Se non si cavalca via, sì. Se non si attacca alla bici di Kittel, la vedo dura. Al giro doveva andare così, poi in realtà Greipel l'ha sverniciato un paio di volte, esatto, senza grossi problemi. L'ha sverniciato una volta in più settimana scorsa al campionato nazionale tedesco. Chissà che a questo turno arrivi uno che li svernici tutti e due, tipo il plurivittorioso di stagione Cocard, che è la speranza di quest'anno. Un francese, guarda caso, un altro francese. Un revanchista, Kautz. D'altronde tutti questi giovani velocisti francesi che ci propinano come dei grandi fenomeni non hanno ancora mai vinto una tappa al Tour, che sia la volta buona. Vediamo, sono 6 o 7 credo gli arrivi previsti in volata, mentre il resto del percorso com'è? Il resto del percorso è un po' il percorso a cui ci ha abituato il Tour negli ultimi anni, con poca cronometro, un po' più dell'anno scorso ma sempre poca, tappe decisive corte in montagna, alternate a tappe di pianura, mezza montagna, mezza collina, mangia e bevi, odiamogli tutte le definizioni che vogliamo, da invece anche lunghezze non considerevoli ma comunque lunghezze che si faranno sentire, sì, forse. In realtà si parte molto in pianura e poi si inizia, noi ci siamo guardati il percorso insieme e ognuno di noi ha pensato una tappa che è quella in cui aprirà più birre, spera di aprire più birre in quel pomeriggio. Il tour vero inizia, secondo me, la quinta tappa, il giorno del massiccio centrale, l'arrivo all'Elioran. Per la prima volta dal 79 il tour arriva sopra i 1500 metri così presto, quindi già alla quinta tappa. E il massiccio centrale è una delle zone più remote della Francia, un sacco di storia e leggenda. 4 colli di tutti di seconda e terza categoria, ravvicinati, discese, salite, come abbiamo detto. E secondo me ci divertiamo perché questo è il format forse nuovo del ciclismo in cui ci divertiamo di più. Forse non sono i tapponi a fare la differenza, ma sono queste tappe di mezza montagna in cui si riesce, chi ha coraggio, chi ha voglia di provare, riesce veramente a scavare, a dare dei distacchi maggiori di quelli che una salita alpina può fare. Non, magari effettivamente non una salita alpina, però poi poco dopo inizia un trittico infernale sui Pirenei, dove probabilmente si inizieranno a vedere le prime scaramucce, se non le prime cadute in senso di classifica. Infatti secondo me l'ottava tappa, che è la seconda del trittico infernale, però è al tempo stesso la più classica e forse quella che rischierà di essere un po' compressa tra la prima e la terza, però al tempo stesso potrebbe regalare o una grande fuga di prestigio, quindi con l'attaccante che non ti aspetti, che però può puntare alla classifica, anche perché partiamo da Pau, quindi partenza storica, per poi affrontare Tourmalet e come ultima salita il Peresur, quindi salite storiche, salite in cui probabilmente ci sarà un caldo infernale. Teniamo conto che nel Tourmalet di temperatura media a luglio ci sono 26 gradi, wow. 26. Quindi è un po' più fresco di questa stanza. Leggermente. Però per media 15 anche la notte, quindi il giorno forse preferirei ancora questa stanza. E quindi secondo me potrebbe riservare grosse sorprese, contando che c'è 16 km all'arrivo dopo il Peresurde e quindi c'è ampio margine per attacchi anche in discesa. Chi in particolare secondo te? Per non ripetere Barguil, io punterei forse a questa volta su Kelderman, perché è un sottovalutato che però ancora ci credo. Chiamatemi pazzo. Potrebbero però aspettarsi nell'ottava tappa, guardarsi un po' e poi dar tutto nella nona, che è la mia preferita. E arrivati con la stanchezza dei due giorni precedenti si potrà vedere effettivamente chi ne ha di più, chi ha recuperato meglio e quindi chi probabilmente ha la condizione migliore. Ed è un tracciato interamente fuori dalla Francia, Kautz è un po' inalterato da questa cosa, e si svolge tutto diciamo in Spagna e si arriva ad Andorra, Arcalis. Le due salite di giornata, cioè sono 5 GPM, ma ci sono due salite che sono già state affrontate nella Vuelta 2015, che sono il Col de Bexalis e la Côte de la Comella, che sono state affrontate nella Vuelta 2015, dove appunto ha vinto Landa, che è uno di cui non abbiamo ancora parlato, e dove Fabio Aru ha preso la maglia rossa, quindi diciamo salite che conoscono bene, in cui potrebbero appunto attaccare da non favoriti. Quindi diciamo. Aru e Landa per la terza del trittico pirenaico. Poi si attraversa tutta la Francia, si arriva giustamente, tornando al tema portante di questa trasmissione, al 14 luglio, festa nazionale francese. In quel giorno c'è una salita nota, ed è talmente nota che ve la facciamo presentare da una voce nota. Vai. El Vatou è una cosa schifosa, orrenda, detestabile effettivamente, proprio nella sua disuguaglianza. Non credo che si possa voler bene al Vatou. A parte che nelle mie salite sentimentali io sono prima pirenaico che alpino, decisamente. E il Vatou non è né di qua né di là ed è una roba... Sarà che il mio primo tour è quello in cui è morto Simpson, quindi il Vatou l'ha segnato. Però ricordo che quel giorno proprio non si respirava neanche in macchina, cioè si fa fatica, c'è questo sole che ti rimpalla, non c'è un albero. E capisco che tanti ci stiano male, anche se poi è 1800 metri, ma è drammatico in sé, cioè tu lo vedi e cioè, è come quando sale in treno uno con una faccia che dici qui prima o poi succede qualcosa, ecco il Vatou è così, da guardare con estremo sospetto. Bisogna anche dire che il giorno dopo aver incontrato questo tizio poco raccomandabile che è il Vatou, ci sarà un cronometro importante, il cronometro dell'Ardèche, questa regione meravigliosa della Francia, nelle gole dell'Ardèche, forse Tony Martin e Kirienka si giocheranno la vittoria, e chissà se il pensiero di questa cronometro influenzerà la scalata del Vatou. In ogni caso, per noi che la guarderemo da casa, in TV sarà uno spettacolo, perché le gole dell'Ardèche sono veramente uno spettacolo per gli occhi. Vedremo invece se lo spettacolo sulla strada sarà all'altezza. Andando avanti verso le Alpi invece, che tappa scegliamo? Ma diciamo che il rischio dell'attesa è lungo, potrebbe coinvolgere il Vatou, potrebbe coinvolgere anche tutte le tappe alpine e dintorni, si va anche in Svizzera. A un certo punto l'attesa, come ci insegna la storia recente, deve finire, ovvero all'ultima tappa di montagna, lì se ne hai te le devi giocare, se non te le giochi neanche lì, magnana, come diceva Mura parlando di Quintana, e a quel punto però ti sei giocato anche le speranze di vincere il Tour de France. L'ultima tappa di montagna di questo tour è la Megève-Morzine, arrivo nobilissimo che ha visto grandi corridori trionfare. È una tappa corta di 146 km, ma sono 146 km di mazzate, come si suol dire. Si parte con la Colombier, con la Ramas, e poi Juplan, salita di una cattiveria rara che ha messo in difficoltà addirittura Lance Armstrong nei suoi anni migliori. E arrivo in discesa. Arrivo in discesa, ma soprattutto bisogna arrivare a Juplan avendo ancora un po' di gambe, perché si può perdere davvero tanto in una sola salita. Poi c'è quella discesa verso Morzine che non mi pare sia una discesa particolarmente tecnica, non me la ricordo francamente, e lì si lì insomma facciamo un gioco. Immaginiamo che la situazione è la stessa dell'anno scorso prima dell'Alpe d'Huez, ma l'ultima montagna è il Juplan, Quintana deve recuperare, Froome ce la fa sull'ultima salita e sull'ultima discesa quest'anno rispetto all'anno scorso. Stiamo dando per scontato che Roland e Esgedal sono già in fuga a giocarsi la tappa, ovviamente. Roland ed Esgedal si stanno giocando la tappa. Dietro Quintana attacca per andare a vincere il Tour all'ultima tappa, come nel 2015. Ce la fa o arriva di nuovo secondo? Spero che arrivi di nuovo secondo a quel punto, perché se di nuovo aspetta l'ultima salita dell'ultima tappa, forse inizia a meritarsela. Concordo. Allora, questo è quello che ci aspetta dal punto di vista dei protagonisti del percorso del Tour de France. Veniamo velocemente a quello che vi aspetta, a voi che ci state ascoltando. Se avete il coraggio di ascoltarci. E anche a quello che aspetta noi, perché questo Tour de France lo vogliamo vivere intensamente, come è inevitabile quando si parla di Tour de France, ma lo vogliamo vivere senza fare la fatica che abbiamo fatto al Giro con quei maledetti screenshot che tanto successo hanno avuto. Non potete immaginare la fatica. Che tante ore della nostra vita hanno rubato, minato relazioni, provocato licenziamenti e tante altre tragedie, per cui cercheremo di raccontarvi il tour giorno per giorno. Ovviamente lo faremo con il nostro racconto pomeridiano a fine tappa, come già fatto l'anno scorso con il materiale che poi ha creato il libro, l'ebook Quel leggero vagabondare, e lo faremo in maniera un po' più intima, un po' più sottovoce, come si diceva in televisione, dopo una certa ora, con un appuntamento notturno. Di... La grande novità dell'anno. Sì, la grande novità, una serie di riflessioni personali intime che abbiamo affidato a un attore che si chiama Angelo Trofa, che ci racconterà il suo rapporto affettivo con il divano, la televisione e quindi il ciclismo. E con Fabio Aru, visto che è sardo. E questo probabilmente si sarà già installato sul suo cellulare, tutte le emoticon delle facce di Fabio Aru che abbiamo messo in free download sul sito dei Crampi Sportivi. Naturalmente saremo su Twitter, faremo i nostri screenshot magari su Twitter, diremo le nostre cazzate su Twitter e daremo spazio a tutte le cazzate che troveremo più interessanti, e vedrete che col Tour de France saranno parecchie. E poi alcune continueremo a pronunciarle davanti a un registratore come questa volta, o magari solo con delle chat via Skype. Magari non ci saremo tutti, ma questo podcast vogliamo riproporvelo in maniera più o meno costante. Non ci prendiamo impegni, ma cercheremo di esserci quasi ogni giorno. Cercheremo anche di avere grandi ospiti. Facciamo subito, lanciamo il petardo della situazione di mercato. Siamo... La bomba! La bomba, siamo in trattativa con Sgarbozza, appena scaricato dalla Rai, perché abbiamo capito che non siamo fortissimi sulle pronunce. Lui no, deve insegnare a Francesco che si pronuncia, che si dice Po e non Pau, perché insomma. Ci aveva provato la mia ragazza che sta a Parigi. Ah, c'è una ragazza francese. È francese, sì, parigina, ottimo. Però senza Sgarbozza è dura imparare il francese, insomma. In ogni caso io faccio il tifo per lei in quanto francese. Ovviamente. A proposito di grandi ospiti, ci ha raggiunto finalmente in trasmissione Dino Zandegulo, l'avevamo evocato, e a questo punto al nostro grandissimo Dino lasciamo la parola per concludere la canzone che abbiamo interrotto brutalmente in apertura. C'è una seconda strofa che adesso ci eseguirà in diretta qui con noi, Dino. E ci risentiamo lungo il tour, buon un'altra tour a tutti. Volta. Ciao, grazie. Ciao. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me, un giro come quello al mondo non ce n'è. C'è la maglia gialla, la maglia a pua, poi chi vince il tour nella storia entrerà. Olè!